Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Di Irene Zerbini. Ben ritrovati. Questa volta in una collocazione diversa del palinsesto, ritorna questa trasmissione del palinsesto estivo di Radio 24, Spunti di Vista. Ed è una trasmissione che si occupa di tendenze e approfondimenti, di elementi che magari non appaiono nella prima pagina dei giornali, ma che hanno un forte impatto sulla qualità della vita. Ed è una trasmissione che ha uno sguardo sul mondo. Torneranno con noi anche i nostri amici corrispondenti, quelli che osservano l'Italia portando un'altra cultura, ma vivendo in Italia. Una trasmissione che, lo dico a quegli ascoltatori che ci hanno contattato, non parlerà d'amore, perché sulla pagina Facebook di Spunti di Vista mi è stato chiesto di parlare del bisogno d'amore. E ho pensato che la comunicazione può fare tante cose, ma non può spingersi a tanto. Un po' in cima all'Olimpo, visto che siamo anche in clima olimpionico. L'amore per l'arte, per l'infinito, ma con la comunicazione non riusciamo a coprirla. Però visto che la richiesta è stata pressante, cercheremo di farci anche un regalo nel corso di questa trasmissione o delle prossime puntate, di accontentare anche questa richiesta. Noi oggi di cosa ci occupiamo? Oggi ci occupiamo di stereotipi. Torniamo con la mente dunque alla prima settimana di luglio, alla violenza che si scatena a Fermo, un omicidio aggravato da motivi razziali. Torniamo a una settimana di sangue negli Stati Uniti e a tutto ciò che ne è seguito. Quanto questo ha a che fare con il pregiudizio? In quest'era della conoscenza globale, come possono permanere questi stereotipi? Sono insiti nella natura umana? Vanno accettati come inevitabili? Lo vogliamo chiedere a qualcuno che ha saputo rispondere a tutte queste domande con estrema levità. Si chiama Cossi Cola Emery. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno agli ascoltatori. Il libro di cui sto parlando si intitola Imbarazzismi. Il nostro ospite oggi è un medico, un dottore a doppia cittadinanza, è italiano e togolese. Esercita la professione di medico. Quale specialità esattamente, dottore? Sono specialista in chirurgia generale. Chirurgia generale, quindi una professione che svolge con estrema soddisfazione. Appena arrivato in Italia, però, subiva degli incidenti, soprattutto nei supermercati. Ce ne vuole raccontare uno che è avvenuto in un supermercato? No, diciamo che ero andato a fare la spesa con mia moglie, abbiamo riempito i carrelli. Siamo tornati alla macchina per caricare la macchina e mia moglie mi spinge sul carrello che insieme al mio portavo indietro per recuperare i soldi. E sento qualcuno dietro che mi schiocca le dita, mi giro e anche lui mi spinge sul carrello, convinto che ero lì a raccattare i carrelli. Forse l'ha fatto a fin di bene, però qual è stata la ragione per cui l'ha fatto? Cosa ha mosso questo gesto? Sicuramente è la mia differenza. Questo mio essere diversamente visibile. Allora, a un certo punto mi rendo conto che la mia differenza crea situazioni imbarazzanti. Ecco, cos'è un imbarazzismo, visto che è il titolo del suo libro? Imbarazzismo sono quelle situazioni, proprio come dicevo prima, imbarazzante, ma legato alla differenza dell'altro. Perché se fosse stato, per esempio, nel caso del carrello, un italiano che andava in giro col suo carrello, sicuramente nessuno avrebbe pensato di spingere il suo carrello a lui. È la mia differenza che è stata la mola. E questo porta a diversi episodi così, che sono imbarazzanti per chi lo subisce, imbarazzanti molte volte anche per chi lo applica. E lei dice che ogni nero che vive in Italia ha la sua collezione di imbarazzismi, poi forse appunto sarebbe il caso di cambiare la parola nero con minoranza visibile, perché questo accade anche a chi ha la pelle più scura, perché viene dal Pakistan, perché viene dal Bangladesh, perché viene dall'India, accade ai cinesi, a tutti quelle persone che sono portatori di differenze visibili relative alla provenienza. Accada molto meno a tanti altri extracomunitari e immigrati che però sembrano fondersi per i tratti somatici con quella che è la popolazione, diciamo così, che ha ancora la prevalenza numerica. C'è questa differenza nell'esperienza tra chi è immigrato e si vede e tra chi è, rimane immigrato, ma è molto più difficile coglierlo finché non ci si parla e non ci si racconta a vicenda. Torneremo tra pochissimo con tanti altri episodi e soprattutto tante osservazioni. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E ancora buona giornata da Irene Zerbini. Stiamo affrontando un viaggio, perché il viaggio all'interno degli stereotipi. Tra poco andremo a incontrare anche quelli che avvolgono, per esempio, la comunità cinese, a cui ancora viene chiesto se i cinesi si riconoscono tra loro o si salutano a caso. È proprio così. Sono domande che possono scatenare il sorriso, e infatti lo fanno con persone molto dotate di autoironia, ma ci andremo tra pochissimo. Ora affrontiamo invece quelli che sono gli stereotipi che ha dovuto affrontare il dottor Cossi Comla Ebri. Quelle situazioni che non rientrano nei casi di discriminazione crudele, dice lui, violento, quantomeno intenzionale, ma comunque si tratta di episodi di razzismo di piccolo calibro che avvengano quasi senza che il loro autore si renda conto di quello che sta accadendo. Sentiamo per esempio cos'è successo su un treno un giorno al nostro ospite togolese. Un giorno andavo a scuola di specialità in chirurgia su un treno delle Ferrovie Nord. La gente, come al solito, occupava prima tutti gli altri posti e solo quando non aveva più altra scelta, disperata, veniva man mano a sedersi nei miei paraggi. Un signore sulla sessantina si sedette di fronte a me e vedevo che già si preparava ad attaccare bottone. Questa volta mi trovai di fronte un attaccatore coriaceo che iniziò con «Hello, America!» Risposi con un dignitoso silenzio. «Capire italiano?» Annuì distratto, ma non riuscii a scoraggiarlo. «Africa?» Annuì di nuovo pazientemente e lui, prendendo la mia apparente rassegnazione come un tacito assenso, proseguì con la sua inquisizione. «Da che paese Africa venire?» Sentì la mia voce rispondere «Togo». In genere a questo punto c'è chi dice «Togo? Sì, ma quale paese? Stato?» Oppure nasconde la sua ignoranza dietro un «Ah!» di intendimento, pensando senz'altro ai famosi biscotti. Intanto il viso del mio perspicace aguzzino, dopo aver aggrottato la fronte in un riflessivo e intenso silenzio, si illuminò di un sorriso di compassione e con infinita sapienza salì in cattedra. «Ah, Togo! Nel tuo dialetto forse dire Togo, ma noi in italiano dire Congo, tu capire? Congo!» Certo che avevo capito. E grazie per la lezione di geografia. Dottore, dunque ha avuto l'occasione anche di ricevere una lezione di geografia sul Togo. Sì, perché c'è in genere una non conoscenza dell'Africa. In genere non raramente capita qualcuno che dice dimmi una parola in africano. Dire una parola in africano è come chiedere a qualcuno di dirmi una parola in europeo. Cioè si considera l'Africa come se fosse un continente, non un continente ma come un paese unico. L'Africa è fatto di 53 paesi, una città come Lomé è diversa di Nairobi, è diversa da Città del Capo. Ma per la gente comune sembra che tutte queste città sono uguali, l'Africa è vista solo come il continente nero in cui qualcuno che va a fare le ferie, non so, a Mombasa dice che conosce l'Africa solo perché ha fatto una settimana su una spiaggia a Mombasa. Io non vado a Helsinki e dire che conosco l'Europa, ecco. Senta, ma è solo pigrizia mentale questo atteggiamento che lei descrive, visto che ormai dovrebbe essere assodato che non si può certo circoscrivere una persona in base a categoria universale o al continente da cui proviene, o lei ci vede qualcosa di più? Ma un po' è una pigrizia mentale, un po' è un immaginario creato ad arte in tutti questi anni dall'idea dell'Africa, da Hixsunk Leones, no? Sì. Dall'Africa di Tarzan, l'Africa del film La mia Africa, La donna leopardo, l'Africa di Cuori di Tenebre di Conrad, cioè queste immagini sempre essenzialmente negative dell'Africa, l'Africa del virus Ebola, l'Africa dei bambini che muoiono di fame, l'Africa per cui si va a fare l'elemosina alla giornata missionaria, no? Quindi un'immagine dell'Africa in posizione sempre di inferiorità, quindi l'immagine che viene, che riempie la mente delle persone è sempre un'immagine negativa in genere dell'Africa, e questo si riflette poi sugli africani inevitabilmente. Lei da quanti anni vive in Italia? Sono in Italia dal 74. E ha visto comunque un universo in movimento, cioè ha visto dei cambiamenti in questi anni, dovendo descrivere l'Italia di quando è arrivato e oggi, o c'è veramente troppa strada da fare? Ma è cambiata, siamo passati dall'Italia che aveva il razzismo verso gli altri italiani, no? Quindi il razzismo verso nord e sud, fino a un'Italia che aveva da un razzismo latente, è passata oggi a un razzismo conclamato, che è passato tramite un razzismo verbale e essenzialmente mediatico. Sembra quasi che si siano rotti i freni, cioè il freno dell'Italia, il freno cattolico che diceva che siamo tutti figli di Dio, i freni dell'internazionalismo di sinistra, cioè l'Africa era paesi deboli da aiutare, no? Quindi l'immaginario tramite il linguaggio che viene a crearsi oggi ha portato molto a un fondo di razzismo in questo paese. Conclamato, lei dice, forse qualcuno lo era anche prima, ma in qualche modo se ne vergognava di più. Certo, oggi non c'è più, quasi sembra quasi che si è sdoganato tutto, no? In qualche modo c'è anche qualche forma di razzismo istituzionale, a cominciare dal discorso della cittadinanza, sugli ius soli, sulle forme oggi che noi vediamo nel mondo delle case, della scuola, del lavoro, dove manca una pari opportunità e una tendenza alla ghettizzazione urbanistica, no? Alla ghettizzazione scolastica. E tutti questi discorsi sono raramente oggetto di dibattito pubblico, rimangono sempre problemi marginali in qualche modo. Peggio ancora, direi, cioè oggi molti politici per convenienza elettorale alimentano queste situazioni con la paura atavica dell'altro, del diverso da sé. Quindi l'immigrato diventa il capo espiatore di tutto, soprattutto colui che è, dicevo, diversamente visibile. Perché è ovvio che fra qualche anno, come abbiamo visto, gli albanesi, essendo bianchi, i rumeni si diluiranno nella popolazione italiana una volta che conoscono bene la lingua. Nessuno se ne renderà conto della differenza, ma chi è di colore diverso, come dicevamo prima, rimane sempre visibile. Anche se si dice nella prefazione del suo libro, che tra l'altro è stato scritto da Cecil Kyeng, la prefazione, l'orizzonte deve essere una società in cui il colore della pelle diventi come il colore dei capelli, cioè una questione di melanina, assolutamente indifferente. Lei si è trovato tra l'altro a testimoniare, insomma a vivere da persona, tra padre e quindi preoccupato, ciò che è accaduto recentemente in Italia a Fermo e contestualmente quella che è stata definita la settimana di sangue degli Stati Uniti, anche se in realtà omicidi da parte delle forze dell'ordine, secondo il Washington Post, sono più di 500 dall'inizio dell'anno, di cui 123 di afroamericani. Ecco, come vive un padre oggi nel 2016 questo tipo di preoccupazioni che arrivano da una parte dall'Italia e dall'altra da quella che viene guardata da tutti come un modello di democrazia, cioè gli Stati Uniti? È angosciante un mondo in cui ancora oggi si può essere discriminati per il colore della pelle. I media sicuramente non aiutano, un po' per la ricerca sistematica della notiziabilità hanno tendenza a etnicizzare le notizie. No, quel caso di questo giovane Emmanuel Mandi, che è stato ucciso a Fermo, i media, alcuni media hanno titolato nigeriano ucciso da ultra locale. Potevano scrivere nigeriano ucciso da un italiano, o più semplicemente potevano scrivere Emanuele Noanzi ucciso da Amedeo Mancini. Ma il fatto di avere specificato nigeriano, cioè, è sempre un modo di etnicizzare, come noi vediamo spesso sul giornale, immigrato ha violentato una persona, extracomunitario ha rubato, cioè una generalizzazione che porta ovviamente a un clima di odio verso chi è diversamente visibile. E le parole dunque non sono per niente innocenti, secondo lei? No, certamente no, perché il nostro linguaggio non è altro che il prolungamento del nostro immaginario, no? E questo immaginario, ogni parola che noi diciamo, se io dico fuoco, vedo, chiudo gli occhi, vedo qualcosa di rosso. Se dico neve, la parola neve, vedo una distesa bianca. Eppure lei è riuscito a scrivere un libro che tratta di questi temi, e sono singoli episodi, spesso di mezza pagina, e per quanto facciano riflettere terribilmente, molto più di una conferenza, molto più di questa trasmissione, probabilmente, riescono anche a far sorridere. Come ha fatto a conciliare da una parte questo razzismo profondo e dall'altra il sorriso? Ma l'ironia è essenziale, secondo me. L'ironia ha un forte valore, una forte valenza didattica, perché l'ironia fa sorridere. Io dico sempre che quando uno apre la bocca, allora si apre un varco per far passare un messaggio. Quindi l'ironia è un po' anche per chi lo usa un'accortezza che permette di ripararsi, perché non si può sempre vivere arrabbiati. Quindi nel risolvere questi problemi sicuramente c'è un ruolo essenziale dei media, del loro linguaggio, ma c'è un ruolo dell'educazione che diventa importante. È un libro che un libretto fa oggi che si legge poco, quindi con piccoli episodi che permettono di affrontare con leggerezza una tematica di questo genere. Io credo che abbia avuto un ruolo importante proprio per via della sua leggerezza. Grazie mille al dottor Cossi Comla Ebri, che parlava di questo libro, si intitola Imbarazzismi, delle edizioni SUI. Cioè, SUI è un acronimo che sta per Sviluppi Umani Immaginati, e pensate, è proprio scritto nel frontespizio che questa casa editrice destina una parte dell'utile a idee folli. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Ancora una volta insieme con una domanda inquietante. I cinesi si salutano a caso o si riconoscono tra di loro? Nonostante abbiano aperto più di 100.000 imprese in 5 anni, l'immagine, lo stereotipo di alcune tipologie di immigrati in Italia non cambiano. E allora circolano anche questi interrogativi. Ancora buona mattinata da Irene Zerbini, anzi ora vi leggo i numeri e vi nomino alcune delle imprese. Gli immigrati, le cifre le abbiamo detto, soprattutto di Marocco, Cina e Albania, hanno aperto queste 100.000 imprese. Esattamente nel 2015 22.000, 6,8% in più rispetto al 2014. Una di queste imprese su tre è artigiana, e tra l'altro il 21% di questi imprenditori stranieri è donna. Quindi anche negli anni della crisi il numero di immigrati che hanno aperto un'azienda, diciamo così, nei 12 mesi dello scorso anno è in crescita, e queste sono le imprese individuali. Perché il dato è ancora più importante? Perché dobbiamo considerare che il saldo complessivo delle imprese individuali lo scorso anno in Italia è stato, con un meno davanti, meno 0,1%. Perché esistono gli stereotipi sui cinesi e quali sono? Visto che ce n'è un repertorio sterminato, investono anche coloro che in Cina vanno spesso per lavoro o per studio, per esempio. Come si dice spesso, ogni crisi è un'opportunità. Allora noi abbiamo scovato una ricercatrice italiana, si chiama Maria Antonietta Fornabaio, che li ha presi, li ha sviscerati, li ha illustrati questi stereotipi, questi pregiudizi con molta grazia. Ha spiegato, per esempio, che cinese, giapponese e coreano sono tre lingue differenti. Ora, lei cura un blog in cui si prende cura di tutti questi pregiudizi e le abbiamo chiesto quali siano i più diffusi. Sì, allora, dove vanno a finire i cinesi quando muoiono in Italia? Che differenza c'è tra cinesi, giapponesi e coreani? Perché i cinesi usano le bacchette, ma soprattutto perché i cinesi sono tutti uguali. E lei ha deciso di fare di questa sorta di ignoranza diffusa nostra italiana, che poi è anche una curiosità, l'oggetto del suo lavoro. E di cosa si occupa lei oggi? Sì, io al momento collaboro con LTL, Live the Language Mandarin School, è una scuola di Pechino con sede anche a Shanghai e si occupa appunto dell'insegnamento della lingua cinese agli stranieri. Io mi occupo della gestione del sito internet, del relativo blog, pagina Facebook e faccio spesso da consulente degli studenti, per cui rispondo proprio a questo tipo di domande, a che cosa va fatto, che cosa non va fatto, che cosa è maleducato e così via. A cosa è dovuto, Maria, il suo innamoramento per la lingua e per la cultura cinese? Ecco, la mia risposta è abbastanza bizzarra, nel senso, un giorno accendo la TV, era il 2008, era estate, e scopro il mondo della Cina grazie alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Pechino, per cui avevo deciso già di studiare lingue straniere, non sapevo ancora bene quali. Poi ho visto la Cina, diciamo così, uno spaccato sulla Cina e me ne sono innamorata, per cui tutto è iniziato da lì. Cioè, fosse stato il 2016, lei finiva in Brasile, per dire. Probabilmente. No, tanto per capire, insomma, che radici ha questo profondo attaccamento, che poi adesso, scherzi a parte, è diventato un profondo attaccamento. Lei è andata a Pechino, ha iniziato a scrivere articoli, poi blog, e le domande tormentone sono uno degli aspetti, naturalmente, che lei esamina. Stiamo parlando di stereotipi, cioè di quel razzismo di piccolo calibro che viene sempre preso con benevolenza, poi però ha degli esiti non controllabili. Pensate che proprio poche settimane fa in una scuola estiva di Peschiera Borromeo, che si trova vicino a Milano, c'è una madre che ritira il figlio prima che entri in servizio un profugo siriano tra gli animatori, tra gli istruttori, naturalmente dotato di certificazione e assunzione. Però sono proprio queste cose quelle che vengono sempre viste come qualcosa di non terribile, non spaventoso, non pericoloso, che sommandosi portano poi a rompere le dighe più grosse a volte di quello che è il razzismo conclamato. Gli stereotipi rientrano in questa tipologia. Ma parlando di stereotipi, visto che qualcuno lo fa e l'abbiamo sentito dai nostri ospiti anche con ironia, vogliamo capire, anche i cinesi a loro volta hanno lo stesso modo di affrontare l'universo, diciamo così, dei caucasici, dei bianchi, degli europei? Una mia amica a Pechino un giorno mi ha detto: ma perché gli occidentali sono tutti uguali? E lì mi si è aperto un mondo. Per quel che riguarda la lingua, c'è anche questa tendenza a pensare che non si possa imparare il cinese se lo si avvicina da adulti, è vero? Assolutamente no. Certamente è una lingua molto diversa da quelle occidentali. La lingua più parlata in Cina è il cosiddetto mandarino, Putonghua, parlata dal 70% della popolazione. E questa lingua ha delle caratteristiche abbastanza singolari, ovvero è dotata di caratteri erroneamente definiti ideogrammi. Ovviamente memorizzarli richiede tempo, cioè da fare ogni volta un processo di memorizzazione che prevede memorizzazione del significato della forma scritta e della pronuncia, che non sono sempre strettamente collegate, Diciamo che quando si arriva a conoscerne almeno 3.000 e 4.000 si può provare a leggere un quotidiano, mettiamola così. Ma dal punto di vista invece della pronuncia, che significa che è una lingua tonale? Il tono, ovvero molto semplicemente l'accento di una sillaba, determina una distinzione nel significato. Le faccio un esempio classico immediato. In cinese, partendo dalla sillaba ma, posso avere, in base, cambiando il tono, al variare del tono, significati differenti. Per esempio, ma è mamma, ma canapa, ma cavallo, ma insultare. Molto chiaro. E, provi a esprimersi in cinese con una frase un po' più articolata, un po' più lunga, di canapa, insultare, mamma e cavallo. Punti di vista. Grandissima, la metteremo nella sigla, guardi Maria. E lei ci ha detto che il 70% dei cinesi parlano questa accezione, cioè il mandarino. E poi quali sono le più diffuse? La cantonese? Sì, c'è il dialetto cantonese, detto anche Yue, è la lingua ufficiale appunto di Hong Kong e Macao. Questa lingua è molto particolare ed è considerata quasi un accento, parlare il cantonese dà quasi un tono glamour, perché tutte le pop star degli anni 90 venivano da Hong Kong. Quello che ci conferma questa conversazione con lei è che quando si ha una grande passione proprio si riescono a superare montagne. Ci saluti in cinese, Maria, e naturalmente buona fortuna. Sì, sì, xiaoting. E speriamo che sia stato qualcosa di molto gradevole quello che lei ha detto. Non le chiedo la traduzione, ce la cercheremo. Grazie ancora, alla prossima. Grazie, ciao. E lo stereotipo si basa dunque non sulla verità, elimina tutte le caratteristiche individuali, riduce ogni individuo a una semplice unità di misura di una massa, perché è più facile, è una scorciatoia, no? Ma anche i cinesi hanno degli stereotipi su di noi, eh? Ci sono poi quei cinesi che vengono semplicemente in Italia per studiare e riescono anche a socializzare molto agevolmente con gli studenti, con le persone molto simili, così dicono, nella casa, nel rispetto dei genitori a loro. E il fenomeno della classe media che cresce nei paesi asiatici e non ha un numero di posti all'università a sufficienza per quei milioni di giovani che hanno dai 17 ai 22 anni in Cina, in Corea, in generale in Asia, e li porta anche in Italia. Noi ne abbiamo conosciuta una che studia a Pisa, studia comunicazione, si chiama Zangroi, e abbiamo chiesto a Zangroi cosa conoscesse dell'Italia prima di venire a stabilirsi qui. Prima di venire qua, certamente l'arte più famosa nel mondo, no? L'arte italiana. È una paese proprio artistica, possiamo dire che sì. E come vivono invece i tuoi amici cinesi gli stereotipi sugli italiani? Cosa pensano degli italiani? Noi italiani sono troppo felici, perché secondo noi italiani lavorano veramente pochissime ore e quindi hanno più di tempo per viaggiare, per godersi queste cose. Nessuna cultura può mettersi in cattedra in campo di stereotipi, e questa ve ne abbiamo mostrato uno allo specchio su di noi. C'è poi un comico canadese famosissimo, Russell Peter, che degli stereotipi ha fatto proprio l'oggetto di tutta la sua arte, la sua comicità. Tra l'altro lui è di origine pakistana, quindi ha anche una pelle non bianca e si può permettere certi lussi che altri in un ambiente politically correct forse non potrebbero permettersi. Sentiamolo. We've got all the non-white people in the world have white folks convinced that they're racist. E qui sta dicendo come gli dispiaccia per i bianchi, perché tutti i non bianchi del mondo sono riusciti a convincere i bianchi che loro, i bianchi, sono razzisti. And the doorman comes up and goes, hey Russell, one of your friends came by. I go, was it a black guy? Oh, I don't know. E qui racconta un episodio molto divertente di questa paura. I mean, you didn't notice. What did he look like? He was tall. questa paura per cui lui, che appunto è brown, come si dice, lavorava in un comedy club, arriva uno degli amici neri per parlargli e viene annunciato così: ehi Russell, è arrivato un tuo amico. E lui chiede: è uno nero? Non lo so, non l'ho notato se è nero. Come non l'hai notato? E come hai fatto? E l'altro gli risponde: l'avete sentito? Era alto, ha i capelli ricci. Perché ha il terrore di dire che il colore della pelle era nera. Allora lui insiste, impietoso, è nero, e quello, alzando le spalle, dice: beh, io non lo so, potrebbe anche esserlo, se lo dici tu magari è nero, insomma io non saprei. E questo era una gag divertente che potete trovare, che ha milioni di visualizzazioni, ma proprio perché la capacità di scherzare sugli stereotipi accomuna un po' tutti. Noi tra poco andremo a trovare una giornalista, incontreremo una corrispondente straniera che parla di sé e di noi, tra pochissimo. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E continuiamo, siamo ancora una volta insieme verso la conclusione per questo nostro viaggio negli stereotipi, nei pregiudizi. Sono così innocenti? A cosa portano? Costituiscono davvero il terreno per quelli che poi diventano semplicemente dei titoli sui giornali, delle vite spezzate? Ricorderete cosa è successo in luglio negli Stati Uniti, e proprio negli Stati Uniti noi vogliamo andare, perché la nostra ospite si chiama Judy Harris, e innanzitutto la ringrazio per il suo tempo. Welcome, buongiorno. Grazie e buongiorno. E Judy Harris è una corrispondente particolare di quelle che vivono in Italia, perché ha veramente un'esperienza che spazia nei campi più all'apparenza lontani, ma che in realtà raccontano, messi tutti insieme, la vita. Per esempio è stata corrispondente di NBC, di Time Magazine in passato, e ora scrive per iItaly. Cos'è iItaly, Judy? iItaly vuol dire un po', è un gioco di parole, vuol dire occhio sull'Italia. È stato creato da un gruppo di docenti di studi italiani negli Stati Uniti, a New York. Comincerei proprio da questo, per chiederti se tu dovessi sintetizzare quella che è la situazione razziale, tra virgolette, negli Stati Uniti, e di integrazione, alla luce anche di quanto accaduto. Cosa scriveresti? Gli Stati Uniti di oggi sono gli stessi di 5 anni fa, di 10 anni fa? Assolutamente no, però c'è chi crede che sia ciclico questa ondata di violenza. La mia impressione è che è un risultato anche di problemi economici dei bianchi del ceto medio-basso, che temono, con l'eguaglianza dei neri, temono di perdere i loro posti di lavoro. Questo è un problema. Secondo anche il caporedattore afroamericano della rivista nera, che si chiama Ebony, lui ha detto: la costante visione della morte violenta dei neri forse contribuisce, e qui parliamo di stereotipi, alla deumanizzazione dei neri, cioè una certa desensibilizzazione dei bianchi. È molto interessante questo approccio, perché vorrei dare una cifra. Questa è una cifra che risale a metà luglio, non ne abbiamo di più aggiornate. Secondo il Washington Post, negli Stati Uniti le forze dell'ordine hanno ucciso 512 persone dal 1 gennaio a metà luglio, e tra queste 512 persone 123 erano neri. Comunque, uno dei motivi, secondo qualcuno che difende la polizia, è che la polizia stessa ha tanto paura, perché ci sono dei nuovi pistoli tascabili che uno può portare, sono minuscoli, e quando uno mette la mano nella tasca, la polizia stessa ha paura che sia un'arma. E di conseguenza questo fenomeno, che poi porta alla luce un altro che distanzia per esempio l'Europa dagli Stati Uniti, cioè comunque questo fenomeno è legato, tu dici, indissolubilmente anche alla grandissima diffusione di armi. Non c'è dubbio, ogni volta che c'è c'è un'esplosione, una bomba da qualsiasi parte, c'è più paura, si vendono più fucili, più pistole. Il giorno dopo il famoso attacco ad Orlando, nel Florida, nel circolo gay, Smith & Wesson, che è una grande fabbrica di armi, ha aumentato le loro vendite dal 10% in un giorno. È una cifra molto significativa. Anche la paura dei musulmani estremisti, questo incoraggia la vendita delle armi, perché anche la pubblicità delle armi, parlando di stereotipi, dice ti devi difendere, non sai dove ti trovi, dovunque vai cerchi di vedere dove sta una porta dove puoi scappare. Per completare una cifra che abbiamo dato prima, 512 persone, di cui 135 neri uccisi dalle forze dell'ordine negli Stati Uniti, ricordiamo che gli afroamericani che vivono negli Stati Uniti sono quasi 40 milioni, diciamo più o meno il 12,5% della popolazione. Tu hai parlato prima di paura da parte dei bianchi, della società mainstream, diciamo così, della perdita dei posti di lavoro per i cambiamenti legati all'economia. Perché questa paura si è accentuata ultimamente, secondo te? Uno dei motivi è senz'altro l'esistenza di Facebook e i video, che uno lo vede, quello che succede, e questo fa molto paura. Ma non soltanto in America, anche in Italia noi abbiamo visto la coppia di migranti scappati da Boko Haram, e il marito è stato ucciso perché lui ha cercato di difendere la moglie, che era stata chiamata scimmia africana. Esatto, è proprio questo, in concomitanza con quanto accadeva negli Stati Uniti a luglio. E quali sono i punti di contatto e le differenze tra questi approcci? Per me l'Italia non è particolarmente razzista, non è mai stato molto razzista, e per pura coincidenza avevo intervistato una bella donna nera di Colombia proprio avantieri, e l'ho chiesto a lei se avesse subito insulti o sfregi in qualche modo. Lei ha detto assolutamente no, e nemmeno suo figlio, che ha 14 anni. Io credo che l'Italia sia molto aperta, e quando io vedo quello che hanno fatto gli italiani per i migranti a Lampedusa, veramente sono piene di ammirazione. E una delle cose stranissime, secondo me, ma mi spieghi, ma perché la polizia non entra sotto i ponti al Tevere? Perché era successo questo povero ragazzo buttato in acqua? Quindi adesso stiamo andando su un altro episodio ancora. Stiamo parlando del giovane studente americano che ha perso la vita proprio a Roma, nel Tevere. Tu hai scritto anche di questo su iItaly. Sì, ho scritto su questo, e non è stato molto capito da alcuni dei lettori, che hanno detto, io ho detto che se i giovani vengono qui non devono sbronzarsi e andare in giro alle 2 di mattina cercando i guai, perché in America non possono bere fino a 21 anni, vengono qui, possono fare quello che vogliono e lo fanno, e diventano un po' alticcio e non fanno molto caso a quello che succede intorno. Una grande, grande differenza culturale, che naturalmente non esonera colui che l'ha spinto poi nel Tevere, il fatto che fosse in stato d'ebbrezza. Però legal age, che in Italia non c'è, spinge masse e masse dal Nord America di giovanissimi a visitare il nostro paese, spesso attratti più dalla possibilità di bere liberamente che da altre attrazioni di tipo culturale. Questo lo si registra quando poi tornano dal viaggio, e quando si chiede sull'Italia ti rispondono per prima cosa: potevamo bere dappertutto. I ragazzi in Italia, tu l'avrai notato, spesso bevono, fanno la loro conoscenza con l'alcol di fronte ai genitori, coi genitori, anche da giovani, ma l'alcol è abbinato spesso ai pasti. Sì. Ho avuto due figli cresciuti qui, e loro non hanno dei problemi di questo tipo in assoluto. Per tornare un momento ai motivi di fondo dei problemi sociali in America, noi abbiamo un grosso problema dell'economia clessidra. Io l'ho visto con i miei occhi a San Francisco, dove ero per presentare una conferenza su, di tutte le cose importanti, Pompei. L'economia clessidra vuol dire che i straricchi stanno sopra enorme, loro hanno tanto, tanto capitale. Il ceto medio è schiacciato, e questo vuol dire anche gli operai sofisticati, artigiani, giornalisti, scrittori, insegnanti, e poi sotto c'è un'enormità di gente molto povera, e questo è il nuovo stereotipo purtroppo vero. Giudy, dovessi tu, come dire, cancellare uno stereotipo che hai notato qua in Italia, il più odioso, quello che più ti dà fastidio, se tu avessi la possibilità di eliminarlo, a cosa metteresti mano? Corruzione. È uno stereotipo la corruzione? È un dato di fatto, non è uno stereotipo. Certe volte gli stereotipi sono la corruzione, certe volte gli stereotipi sono anche veri. Abbiamo visto purtroppo troppo evidenza. Grazie mille dunque a Judith Harris. I corrispondenti saranno sempre con noi nel mese d'agosto, i corrispondenti stranieri, in questo format settimanale Spunti di Vista, per cui ringrazio Carmelo Lauricella in regia e Sylvie Boccaletti, che è un'autrice di questa trasmissione. Ma prima di salutarci, avevamo promesso all'inizio della trasmissione un regalo, avevamo detto non possiamo parlare d'amore, come ci avete richiesto sulla pagina Facebook, ma qualcun altro è senza dubbio in grado di farlo. Questo è il nostro dono. E poi fate l'amore. Niente sesso, solo amore. E con questo intendo i baci lenti sulla bocca, sul collo, sulla pancia, sulla schiena, i morsi sulle labbra, le mani intrecciate e occhi dentro occhi. Intendo abbracci talmente stretti da diventare una cosa sola, corpi incastrati e anime in collisione, carezze sui graffi, vestiti tolti insieme alle paure, baci sulle debolezze, sui segni di una vita che fino a quel momento era stata un po' sbagliata. Intendo dita sui corpi, creare costellazioni, inalare profumi, cuori che battono insieme, respiri che viaggiano allo stesso ritmo, e poi sorrisi, sinceri, dopo un po' che non lo erano più. Ecco, fate l'amore e non vergognatevene, perché l'amore è arte e voi i capolavori. Era una poesia di Alda Merini, Fate l'amore. Questo era il regalo di Spunti di Vista, che potete riascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e potete contattarci sulla pagina Facebook. Un saluto da Irene Zerbini.